Gli unici oggetti natalizi sono i souvenir che riproducono la grotta di Betlemme, in vendita per i turisti. Ma le saracinesche dei negozi sono dipinte di verde, il colore della bandiera dell'Islam. La percezione di un fondamentalismo islamico strisciante si insinua quando si arriva nel centro di Betlemme, sulla sommità della collina dove sorge la Basilica della Natività. Una moschea scintillante nel riverbero della luce sulla pietra bianca si trova sulla piazza della Mangiatoia, direttamente di fronte alla Basilica della Natività, la chiesa simbolo del cristianesimo. A confronto dell'altro minareto dove il muezzin chiama alla preghiera con una forza di migliaia di decibel, il rintocco delle campane della chiesa a mezzogiorno sembrano un timido e sommesso appello, un SOS che si perde nei mille rumori che invadono la piazza, i clacson dei furgoncini, la polizia palestinese che si affanna nel vano tentativo di regolare la circolazione. In questi giorni di fine dicembre, girando per le stradine del centro, ci sono i negozi che vendono abiti di Babbo Natale, le statuette madreperla della Vergine Maria, i presepi scolpiti nel legno d'olivo, ma è tutto. Nessun addobbo per le strade, niente luci colorate. Nessun segnale che annuncia che qui, 2010 anni fa, accadde qualcosa, qualcosa destinato a cambiare la storia dell'uomo. Benvenuti nella terra del Natale, dove il Natale non c'è, o meglio, viene angustiato, minacciato, compresso e quasi nascosto. Questo luogo a cui tutti i cristiani rivolgono un pensiero la notte del 25 dicembre non è quel che si crede. Il consiglio comunale della città è dominato da Hamas, il sindaco è cristiano solo perché Arafat lo impose per legge, ma la comunità ogni giorno si assottiglia, le case si vendono, si svendono e addio per sempre. I betlemiti cristiani sono precipitati negli ultimi 30 anni da una maggioranza schiacciante a una modesta minoranza. L'ultimo censimento demografico conferma il crollo della popolazione cristiana, meno del 12% dei 60.000 abitanti della città. Chi può scappa, fugge, emigra. Tagliati fuori economicamente dal muro, che avvolge del tutto la città e la separa dai campi un tempo coltivati, i concittadini di Dio vivono solo dei souvenir che vendono nelle botteghe sulla piazza della Mangiatoia. E le gang di ragazzetti islamici riempiono la piccola comunità di angherie, minacce, piccole violenze. Un disagio del vivere che ti entra dentro silenzioso come un virus. La paura ha spinto molte famiglie cristiane ad emigrare, a chiedere accoglienza verso altre comunità cattoliche, quasi sempre oltreoceano, negli Stati Uniti, in Canada e negli ultimi 5 anni moltissimi vanno in Cile. I rapporti fra le due comunità sono indubbiamente un po' difficili, ammette padre Severino, frate francescano che gestisce per la custodia di Terra Santa l'ostello per i pellegrini a fianco della Natività. Indubbiamente la popolazione cristiana in questi anni è crollata. È la visione del futuro che non c'è che uccide la speranza. La vita si vive ogni giorno, poi basta una notizia sui giornali, alla TV, per vedere scendere vertiginosamente il numero dei turisti e l'economia della città si ferma. Il senso di isolamento è certamente aumentato da quando Betlemme si è trovata circondata dal muro di sicurezza costruito da Israele. I turisti che cercano di raggiungere la città sono costretti a code di ore ai checkpoint per il controllo dei documenti, mentre gli abitanti di Betlemme che vanno in senso contrario devono ora richiedere un permesso speciale, raramente concesso, per andare a Gerusalemme, che dista appena 10 minuti di auto. La città ha perso gran parte del suo territorio grazie agli insediamenti israeliani. 2/3 del governatorato di Betlemme è stata dichiarata zona militare off-limits per i palestinesi. Tagliata fuori dalle terre coltivate a nord e a ovest dal muro, a sud e ad est dalle strade che solo i coloni israeliani hanno il diritto di percorrere, la città è diventata un ghetto. Il muro, pieno di torri di guardia, è dentro la città ed è visibile ovunque. Ha trasformato il luogo in cui Dio è entrato silenziosamente nel mondo in una prigione a cielo aperto. Il simbolo di tutto ciò che è sbagliato nel cuore dell'uomo, lo ha definito l'arcivescovo di Canterbury durante la sua visita alla Basilica. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Fabio Scuto, Betlemme, pubblicato da Repubblica del 22 dicembre. All'indomani degli accordi di Oslo, siglati nel 93 tra Arafat e Simon Peres, l'attitudine di gran parte del mondo palestinese era quella di guardare alla società israeliana come a un mondo sull'orlo del collasso. Da qui la convinzione della possibilità di una rivincita politica, da realizzare portando il terrore dentro Israele. È quanto scrive David Megnagi nel suo libro Le sfide di Israele, che contiene alcune considerazioni sullo Stato di Israele nate da un confronto tra i testi della tradizione ebraica e quelli degli scrittori israeliani contemporanei. Il conflitto mediorientale è lo specchio di un dramma di più ampia portata. Per la valenza simbolica dei luoghi, per il significato che vi assume, per la contiguità spaziale con i punti di frizione nei rapporti tra sistemi politici e civiltà diversi. Il conflitto è per uno stesso territorio, ma anche fra identità contrapposte. È uno scontro fra memorie e diritti, dove l'anelito è per gli stessi panorami, le proprietà, i luoghi e i simboli. Per gli israeliani la nascita di Israele è la realizzazione di una promessa di riscatto dopo eventi luttuosi inenarrabili. Nell'universo islamico la perdita del territorio è una catastrofe umana, politica e teologica, una lacerazione dell'umma superabile solo con il ritorno alla situazione precedente. Difficilmente un israeliano utilizzerebbe nella sua lingua madre il termine Palestina con riferimento all'epoca del mandato britannico. In ebraico il territorio che include Israele e il futuro stato palestinese è Eretz Israel, la terra promessa da cui il popolo ebraico idealmente non si separò mai, neppure quando gli fu impedito di abitarvi. Per i palestinesi è Falastin, Palestina, dall'antica denominazione romana. Passeggiando per Gerusalemme si ha la sensazione che anche i morti votino alle elezioni. Non solo quelli sepolti nella grande necropoli che si affaccia sulla città, ma anche coloro che sono spariti nei campi nazisti e non hanno avuto sepoltura. Gli arabi lo negano, ma la vita ebraica da quei luoghi non è mai scomparsa. La speranza del ritorno si è conservata nel luogo della preghiera, insieme alla lingua, sino a quando le condizioni storiche lo hanno reso possibile. Scavando sotto i villaggi palestinesi, si possono trovare i resti di antichi cimiteri ebraici e di una sinagoga dei primi secoli. Negli opuscoli distribuiti ai visitatori della Cupola della Roccia e della Moschea di Al-Aqsa, gli israeliani e gli ebrei non hanno nemmeno un nome. Per le autorità religiose islamiche si tratta di alcuni che affermano che un tempo esisteva un tempio. L'assenza di un riferimento anche nominale alla presenza ebraica su quelle terre la dice lunga sul carico di distruttività racchiusa nelle parole. Per lungo tempo Israele è stato per la totalità del mondo arabo un'entità che non doveva trovare posto nelle cartine geografiche. Per indicare il luogo in cui a Gerusalemme sorgeva il secondo tempio, in ebraico sarebbe impossibile dire «spianata delle moschee». In ebraico è «Har HaBa'it», il luogo dove un tempo sorgeva il Santo dei Santi. Per un ebreo osservante non è dato camminarvi. Solo il sommo sacerdote poteva accedervi in occasione del Kippur, giorno dell'espiazione, per impartire la santa benedizione. Pochi mesi prima dello scoppio della guerra civile in Libano, Arafat aveva evocato l'immagine del paese dei cedri per spiegare che cosa realmente intendesse con la formula magica di una Palestina araba e democratica. Si sa come è andata a finire. Avete ascoltato alcuni passaggi dal libro di David Megnagi, Le sfide di Israele, lo stato ponte tra Occidente e Oriente, Marsilio Editore, 176 pagine, 19 euro. Per il pranzo di Natale basta poco. Indovinare la tovaglia e le decorazioni appropriate, scegliere qualche candela e rinfrescare qualche regola di bon ton in più. No, invece, a cibi di lusso o a esperimenti di cucina etnica. Cinema e letteratura americani sono univoci nel raccontare le festività. Che si tratti del pranzo del giorno del ringraziamento o della cena di Natale, le cose vanno più o meno così. I figli, di solito studenti universitari pieni di segreti oppure falliti o riusciti in un modo diverso dalle aspettative, o magari omosessuali non ancora dichiarati, raggiungono i genitori nella cittadina d'origine. All'inizio ci sono convenevoli, piccole insofferenze trattenute, bugie a mezza bocca. Infine, durante il pranzo o il cenone, esplode il conflitto. Come se il desco festivo fungesse da miccia narrativa di ogni conflitto familiare latente. Un simile cliché, a forza di declinarlo, e anche il soggetto del Monicelliano Parenti Serpenti, necessita di variazioni. In uno dei più bei racconti di Natale mai scritti, Paul Auster narra di Oggie, tabaccaio di Brooklyn, che rimasto solo il giorno di Natale, decide di riportare il portafoglio a un ragazzo nero che l'ha perso mentre scappava dopo aver rubato nella sua tabaccheria. Trova solo la nonna cieca del ragazzo, che lo scambia o finge di scambiarlo per il nipote. Allora Oggy imbandisce nello sporchissimo monolocale un pranzetto a suo modo sontuoso, scendendo a comprare cibari al deli più vicino. I due chiacchierano, mangiano, si sbronzano e infine la vecchia si addormenta. E Oggy se ne va senza neanche lasciarle un biglietto, tanto non potrebbe leggerlo, e dopo aver rubato una macchina fotografica ancora confezionata, probabilmente a sua volta rubata dal vero nipote. Anche qui gli scambi di gentilezze sono tenuti vivi, narrativamente, da scambi di scorrettezze. Quando i protagonisti siamo noi, tuttavia, possiamo programmare soddisfazioni natalizie culinarie, estetiche, persino familiari, senza tema di far annoiare lettori e spettatori. Il divertimento di organizzare tavole che colgano lo spirito intimo e minimalista del nostro tempo è già di per sé una festa. Una passeggiata in campagna o in un parco cittadino per raccogliere l'occorrente per le decorazioni, ghiande, foglie di magnolia, pungitopo e bacche del sottobosco, edera, pigne e rami di pino. Poi una visita a quelle bancarelle del mercato dove ormai dilagano prodotti ortofrutticoli esotici di forme bizzarre, a noi ignoti e che non sapremo come cucinare, perfetti per le decorazioni natalizie. Combinando quello che abbiamo trovato in campagna al mercato con vecchie palle di Natale spaiate, si creano decori curiosi che alludono al nostro poco coltivato talento artistico. Quanto al resto, penso che almeno le feste meritino una bella tovaglia e dei bei tovaglioli, lasciando nel cassetto quelli di carta. E ovviamente non si deve fare a meno delle candele, con la loro suggestiva lucina tremolante, purché non profumate. Non si può mangiare con le narici molestate da profumi artificiali. Amate pure il cibo etnico, ma durante le feste non fate esperimenti. Pochi piatti non cervellotici ma collaudati, evocativi di momenti trascorsi insieme, però alleggeriti dalle grasse ed eterne cotture di un tempo. Eviterei anche i cibi di lusso anni 60, scamponi, aragoste, salmoni selvaggi, caviale, patè tartufato. Meglio riscoprire sapori semplici e dedicare un po' di tempo alla ricerca e alla selezione dei migliori ingredienti. Materie prime, ricette, stili di servizio. Trovate tutto nella nuova Garzantina Cucina. Regalatevela! Se poi il Natale lo celebrate al ristorante, consiglio di stare alla larga da quelli col menù natalizio obbligatorio. Fa crociera, fa albergone, fa soprattutto tristezza. La cucina migliore è quella rodata, anche a livello di acquisti, non quella kitsch che si improvvisa due volte all'anno per soddisfare una fetta di mercato. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Portiamo in tavola la fantasia degli affetti», a firma di Camilla Baresani, è pubblicato dall'inserto Domenica del Sole 24 Ore del 19 dicembre.